La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Vista l'atmosfera generale, come storia d'amore vorrei parlare di una delle mille versioni della leggenda di Barba Blu. Questa è una leggenda bretone medievale e si intitola Com'era bella la voce di Evelyn. È così bella la voce di Evelyn. Non tutti possono dirla. Evelyn canta solo per alcuni, li sceglie. E chi la sente interrompe qualsiasi cosa stesse facendo per ascoltare il canto che viene dalla foresta. La donna lascia cadere il telaio. Si alza in piedi e va, a occhi chiusi, seguendo la voce, e mai più la si rivede. I bambini sospendono il girotondo. Tutti in fila si dirigono verso il bosco e là si perdono fra le dense foglie. Dove vanno? Nessuno lo sa. Ma non tornano indietro mai. Così dolce è la voce di Evelyn. E c'era, sotto un gran cielo tempestoso, Alma, una figlia di re, che non badava agli uomini. Amava solo le fiamme vive dei bivacchi, il vento che sfidava col suo cavallo, il mare dove si tuffava d'inverno. Aveva sentito parlare della voce di Evelyn, ma ne sorrideva, come di una storiella da donnette. Ma un giorno, anche lei udì la voce di Evelyn. Evelyn la chiamava per nome e le diceva: «Vuoi essere la regina del mio paese? Vieni, io ti aspetto». La principessa corse alla casa del re suo padre. «Padre, Evelyn ha cantato per me». E il padre dice: «E ti sei salvata. Ringrazia Dio e non pensarci più». «Non posso, padre. Evelyn mi aspetta». «Ma Alma, tu sei già promessa. Ecco che sta arrivando tuo fratello con lo sposo che ti ha destinato ed è un soldato valente». Alma guardò il prescelto e disse al fratello: «Non sposerò mai il tuo compagno grasso e rude con le gambe di corvo. Ho già scelto il mio sposo». Il fratello la minacciò, ma il padre gli impose il silenzio. «Non ho mai negato niente a tua sorella e non le negherò nemmeno la sua rovina, sia come ha deciso». Le infilò lui stesso, tristemente, una tunica bianca mirabilmente tessuta, dicendole: «Sposa chi vuoi, ma ricordati che con questo abito si sono sposati tua madre, tua nonna, tutte le donne della famiglia e l'hanno fatta arrivare fino a te immacolata. Giura che non la macchierai». Alma giurò, il padre la benedisse. Col suo abito da sposa, Alma raggiunse Evelyn, che l'aspettava al margine del bosco. Era bello come la sua voce. Evelyn la guardò con amore. «Principessa, nessun viso ho sognato più puro del tuo. Il tuo canto mi ha resa bella. Sarai mia fino all'ultimo respiro? Sì, ti chiedo solo di ascoltare la tua voce». Cavalcando al suo fianco, Evelyn cantò ancora per lei. Quando tacque, Alma si accorse che al loro passaggio nel bosco tacevano gli insetti, tacevano gli uccelli e perfino il vento. Venne la notte, non arrivavano mai. Alma ebbe freddo. La tunica preziosa era leggera. Evelyn le disse: «Sei stanca? Hai paura?» E la sua voce era come un filo d'acqua ghiaccia. Alma rispose: «Sì, fermiamoci a riposare». Ma Evelyn: «Fra poco avrai il più dolce dei riposi, principessa. Alza gli occhi». Essa alzò gli occhi e vide un grande albero dal quale penzolava una fanciulla morta. E più là altri alberi, innumerevoli alberi, che portavano ciascuno una donna appesa. «Non avere paura», disse Evelyn. «Queste sono le mie mogli. Fra loro sarai regina». Anche quelle restarono stregate dal mio canto. Ma una donna innamorata non serve più. La mia voce ha bisogno di uno stupore sempre nuovo. E Alma gli disse: «E questo è il dono che mi fai?» Ed Evelyn: «Sarai mia per sempre. Solo la morte può difenderti dal mio amore geloso. Scendi da cavallo. È la tua ora. Ti chiedo una grazia. Sono figlia di re. La corda mi umilia. Tagliami la testa, Evelyn». E lui, compiaciuto: «Sei l'unica degna di me. Solo tu non chiedi pietà». Smontarono. Evelyn aveva già alzato la spada. Alma lo fermò con un quieto gesto. «Lascia che mi tolga la tunica. Ho giurato a mio padre di non macchiarla». Evelyn acconsentì. «Sei ammirevole. Peccato. Fra poco non sarai più niente». Poggiò la lama sul prato, guardando la principessa che si sfilava la tunica con un gesto elegante. Ma invece di lasciarla cadere a terra, la lanciò sul viso di Evelyn, fulminea afferrò la spada e con un colpo netto gli tagliò la testa. Senza emozione, guardò poi la bella testa rotolare per terra. La testa parlò. La sua voce non era mai stata così ammaliante. «Principessa, nella sacca c'è un unguento magico. Ti prego, riattaccami al corpo». «No, sporcherei di sangue la mia tunica. Ti offro lo stesso dono che riservavi a me. Sarai mio. Tu che volevi da me tutto e nulla volevi dare. Solo la morte può difenderti dal mio amore geloso. Porterò il tuo capo nel mio paese. Il corpo lo lascio alle tue spose». Dietro gli alti alberi saliva la luna. Alma cavalcava nel chiarore, portando fra le braccia, avvolta in un drappo, la testa di Evelyn. Com'era bella la voce di Evelyn. Io vivo in treno, per amore e per necessità, perché non guido la macchina e non prendo mai l'aereo, se non per andare molto molto lontano. E non posso dire di amare il treno. Il treno è la mia terra, è il mio luogo. Finalmente qualcosa che si muove, una casa in fuga. E la mia affezione per questo mezzo di trasporto supera in corsa la squisitezza dell'amatore ed entra fischiando nel regno della mania. Viaggiare in treno, assieme al momento prima di addormentarsi, è l'unico posto in cui si è autorizzati a fantasticare. L'autopista di treno con deliziosa precisione rifonde il mondo tra Firenze e Bologna. E poi mi piace il ritmo del treno, dei vecchi treni regionali che ce l'hanno ancora, come nel West, come nell'infanzia. Chi ama veramente il treno vuole sentire il tutum, tutum sui binari. Chi ama il treno vuole la giostra. Mi piace il vagone letto per l'intimità e per la prima colazione, quando ti portano il caffè col mondo che corre davanti inseguendo il sole, mentre ci sono questi campi di brina e tutto è bianco, anche se è estate. Se ti svegli in treno è sempre come una grande mattina di Natale. Mi ricordo che da giovane un innamorato, per la nostra prima notte, mi portò in treno, in un vagone letto, da Napoli a Milano. E poi, non solo, ma è anche l'ultima biblioteca viaggiante che esista e l'ultimo luogo della lettura. Se stacchi il telefonino e hai la prudenza di metterti dei tappini così non senti le suonerie degli altri, non t'acchiappa nessuno. Io vado in treno come al cinema, come nei libri che si leggevano da ragazzi. Io sto in treno seduta su un racconto di Kipling. Mi piace anche la cuccetta, quella più in alto, dove bisogna arrampicarsi come mozzi nella notte. E poi il respiro degli sconosciuti, questa emozione del dormitorio pubblico. E se il controllore è villano, c'è anche un istante, non bello, un breve sapore da lager, con questa luce che si apre all'improvviso sugli occhi. «Biglietto, signori!» In prima non lo fanno, nelle cuccette sì. E questo è per me il sogno ricorrente, mi sveglia dal mio sogno ricorrente, il terrore di non averlo il biglietto, di non averlo mai avuto, di viaggiare da clandestino sempre. Molti ancora ricorderanno il principe Dado Ruspoli, quell'incantevole bambino con la sciarpa rossa, che era il contrario dello snob, ovvero era un uomo elegante. E una volta in un'intervista disse: «Il treno è l'ultimo lusso rimasto agli italiani». Ed è vero, mentre il viaggio aereo ci rivela che il rango della vita umana oggi è lo scatolame, in aereo siamo trattati come carne in scatola, il treno invece, il vecchio treno, ci riporta al progresso come si sognava una volta, comodità invece di assassinio. Peccato però che chi gestisce le ferrovie fa di tutto per farci passare la voglia. Il treno era l'ultimo lusso degli italiani, prima di diventare l'ultima fregatura, l'ultimo sberleffo ai cittadini che pagano il biglietto. Ha una strana visione del treno Samuel Beckett, nella sua commedia Tutti quelli che cadono, ed è la storia di questo cieco che viaggia in treno e, senza testimoni, butta giù un bambino dal vagone. Per una contorta compassione, dirà a sua moglie, per stroncare un disastro sul nascere. Perfetta interpretazione delle infinite possibilità di un viaggio in ferrovia. E lo capirono anche gli indiani d'America, quando quei cavalli si buttavano davanti alla bestia d'acciaio per domarla. I Pelle Rossa si ribellavano alla devastazione del loro territorio e furono sterminati. E mi fa molta impressione oggi vedere la gente in Val di Susa che viene bollata come no TAV, come si parla di queste persone che si ribellano all'alta velocità come passatisti, intralciatori del progresso, o addirittura il ministro Maroni li ha trattati da terroristi. Ecco, terroristi chi? Il fatto che contro una popolazione fatta di uomini, donne, vecchi, bambini si mandino degli speciali corpi di polizia, di solito impiegati per snidare i delinquenti dell''ndrangheta nell'Aspromonte, mi fa molta paura. In uno Stato che si pretende democratico, mi fa molta, molta paura. Oggi comunque qualsiasi forma di protesta viene trattata come qualcosa di criminale. Quest'alta velocità perché è così necessaria? Ce la impongono, facendoci pagare dei prezzi assurdi. Si sta facendo della ferrovia, con questa alta velocità, della ferrovia che è sempre stato il servizio popolare per eccellenza, lo si sta trasformando in una cosa da ricchi. Roma-Milano in seconda classe, col Frecciarossa, costa andata e ritorno quasi 200 euro. Se vuoi prendere un Intercity o un regionale, sono fatti tuoi. Ci ho messo 5 ore da Roma a Firenze con un regionale e 9 da Roma a Mantova. Oh, inoltre, va bene, spendi una fortuna, però come ti tratteranno poi in questi treni? Fateci caso, se prendi un Frecciarossa Roma-Milano, su 12 vagoni ci sono sì e no 3 toilette che funzionano. Le altre sono tutte chiuse. C'è scritto fuori uso. Perché le ferrovie risparmiano sul personale. Ma se non sanno tenere puliti nemmeno i bagni, come posso fidarmi della manutenzione dei binari e delle macchine, lanciando questi proiettili nello spazio? E tra l'altro funzionano solo i collegamenti fra le grandi città, perché se invece che verticalmente tu vuoi attraversare orizzontalmente l'Italia, non so, Toscana, Marche, Campania, Molise, è come viaggiare in dirigenza. E poi angherie insopportabili per un viaggiatore. Più di 20 anni fa tolsero i facchini, a Milano e nel nord chiamati portabagagli. Tutti noi viaggiatori di treno abbiamo il mal di schiena. Ma da 3 anni hanno fatto ancora peggio. Ci hanno tolto anche i carrelli. Perché dicono, è un costo per le ferrovie. Beh, spendete. Con quello che ci fate pagare i viaggi, spendete. Spendete per noi, spendete per voi. E a noi questo è un costo per le ferrovie, ma a noi quanto costa? Quest'anno arrivo con uno di questi bellissimi treni, tra l'altro nella tratta Roma-Torino, devo dire, le toilette funzionano più che nelle altre tratte, non so perché, sono i misteri delle ferrovie. Arrivo con un mal di schiena forsennato, con 4 valigie, di cui 2 piene di libri, a Torino per la Fiera del Libro, un caldo terribile, anche calo di pressione, e chiedo al controllore se mi possono fare avere un servizio di portabagagli a pagamento, perché esiste. Lui dice, no, sa, ci dispiace, perché le ferrovie abbiamo litigato con la società appaltatrice di Torino, quindi non c'è niente da fare. Ma io dico, scusi, ma se io schiatto sulla banchina appena arrivata? Dice, beh, allora chiamiamo il 118, perché sa, a noi non ci riguardano i passeggeri, una volta a terra se la cavano per conto loro, le ferrovie rispondono solo del viaggio. E poi altre stravaganze. A Milano hanno speso una fortuna, qualcuno sicuramente avrà fatto dei buoni affari, per rifondare tutta la stazione. Hanno messo, e qual è il grande mutamento? Questo bel grande bar accogliente, interclassista, nel quale ci si rifugiava per delle ore, è stato abolito. In cambio, negozi lussuosi, che io vorrei sapere a chi servono, perché io vorrei sapere chi va alla stazione a comprarsi un Armani. Inoltre, viaggi in treno. Viaggi in treno e c'è una voce che ti accompagna. E, come nel Grande Fratello, una voce che non ti lascia mai solo. Di che ti parla questa voce? Oltre che delle arrivi e delle partenze, ti parla soltanto delle merendine, vogliono spacciare le loro merendine. E in tutto il treno c'è questa voce che dice: in questo momento ai viaggiatori di prima classe viene servito. Ti raccontano un menù che sembra che ci sia in prima un banchetto di trimalcione, invece no, è un trucco per fare morire d'invidia quelli della seconda classe. Che poi non è vero, perché ti danno due noccioline e un litro di Coca-Cola. È la cosa più miserabile che si possa offrire in un treno. Però parlano sempre e continuamente. Se d'un tratto, come succede, ti fermi in galleria, va via la luce, si spegne l'aria condizionata, muori dal caldo, i finestrini non si possono aprire, ti prendono attacco di claustrofobia, silenzio di tomba. Non c'è, il personale sparisce, la voce tace, non c'è più la possibilità di sapere se ne uscirai vivo. Passate per le stazioncine, tutte smantellate. Le vecchie piccole stazioni che pena vanno in rovina, con dei brutti disegni, con dei brutti graffiti, con dei mattoni che crollano. E dice: ma perché li riducete così? Perché, ha sempre la frase, perché è un costo per le ferrovie. Ma spendete avari, che paghino! In questa realtà di binari incustoditi, di deragliamenti, di incendi a ogni tratto, di soccorsi mancati, io voglio vedere come finirà questa campagna consumistica per lanciare questi micidiali treni super veloci. Ci vogliono mandare Roma-Milano in 2 ore e 20. Ma perché? Un treno è un treno, non è mica un missile. Ecco, questa persecuzione di questi manifestanti contro l'alta velocità mi ricordano un film meraviglioso che consiglio a chiunque di rivedere, che è Miracolo a Milano, dove ancora una volta ci sono questo gruppo di poveri che vivono nelle baracche. Arrivano questi capitalisti con i cappotti, col collo di pelliccia, che naturalmente li cacceranno via, ma loro se la caveranno. E come se la caveranno? Salendo su delle scope nella piazza del Duomo a Milano e volando in cielo, in un'altra terra. Ecco, come dice Battiato nella sua canzone, e se ti senti male, raccomandati al Signore. Ecco, io ho parlato da viaggiatore in maniera molto semplice e molto soggettiva del treno e della TAV in Val di Susa. Adesso ascoltiamo invece qualcuno che sa le cose, l'uomo più documentato d'Italia e tra i più coraggiosi, che conosce alla perfezione dati e cifre. E se parla di pericolo e di lo scoffare, gli dobbiamo proprio credere. Si tratta di Marco Travaglio. Io ve ne faccio ascoltare un brano. Se volete ascoltarlo intero, e vale veramente la pena, potete trovarlo su YouTube, TAV né oggi né mai, Marco Travaglio. Il nostro governo e gran parte della nostra opposizione stanno militarizzando la Valle di Susa e altre valli del Piemonte per costringere la gente a subire un'opera inutile, dannosa, costosa, inquinante, criminale per certi versi, imponendo da Roma, se non da Bruxelles, una cosa che si dovrebbe fare solo ed esclusivamente con il consenso delle popolazioni. Prima si trova il consenso delle popolazioni, poi si fa l'opera, esattamente come hanno fatto i francesi dall'altra parte delle Alpi. Prima hanno convinto le popolazioni, hanno ascoltato le popolazioni, hanno dato alle popolazioni ciò che si poteva dare loro e con il loro consenso hanno iniziato a costruire. Senza il consenso delle popolazioni queste opere non si possono fare, non c'è niente da fare, non è la sindrome NIMBY, non è il non in casa nostra, perché se c'è bisogno per la nostra vita di un qualcosa che pure ci dà fastidio, è giusto che si faccia anche in casa nostra. Ma di quest'opera non c'è alcun bisogno, o almeno nessuno ne ha sentito il bisogno, salvo alcuni burocrati e, temo, alcuni tangentisti. L'unica cosa che si può fare è stare con gli occhi aperti e, possibilmente, essere vicini alle popolazioni che protestano. Stavamo parlando del treno, dell'alta velocità, della bassa velocità, della meraviglia di questo trasporto e di come ce lo stanno rendendo impossibile. Ecco, dopo l'intervento di Travaglio che abbiamo preso da YouTube, vorrei sentire un'altra voce autorevole, stavolta di un artista, di un musicista, poeta, regista, Franco Battiato, che ha un grande posto nella mia mappa dei coraggiosi, che mi rassicura, che mi consola, perché ce ne sono, no, per fortuna ce ne sono. Io lo conobbi ai tempi di Fetus e di Pollution, e ero un ragazzo ma già aveva intrapreso questo lungo cammino d'arte e di conoscenza senza fermarsi mai e senza mai perdere il senso dell'umorismo. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di cose. Qui Capitaneria di Porto, come richiesto il cantautore Franco Battiato è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Franco, sì, sono pronto. Stavamo parlando, Franco, della TAV in Val di Susa e avevamo appunto citato Miracolo a Milano, dove anche ti ricordi quegli angeli cattivi che anche loro sono al servizio di questi capitalisti col collo di pelliccia. L'ennesima beffa, insomma. Ecco, volevo sentire il tuo pensiero appunto su quest'atto di forza che stanno facendo sulla TAV. Si tratta che non ci possiamo fidare, non si mette in discussione l'opera. Si mette in discussione la gente che la commissiona e la esegue, perché anche il ponte sullo stretto, che mia madre mi diceva che sua nonna parlava del ponte sullo stretto, il ponte è qualcosa che lega due luoghi, no? Quindi ha un fascino già di unione. Poi la fanno magari crolla dopo qualche mese, e quello è il problema, come è successo all'Aquila, una ricostruzione fasulla, come è successo alla Maddalena, 600 milioni di euro buttati via praticamente. Questo paese è poco attendibile, questo è il fatto. Tu mi dicevi che vai molto in aereo e pochissimo in treno, che rapporto hai col treno? No, veramente ne ho presi un paio qualche mese fa in Germania, ho fatto proprio Berlino, Amburgo e ritorno, e devo dire, rispetto a quei pochi treni che ho preso in Italia, le orecchie non si sono mai tappate. Anche passando attraverso tunnel, cioè, da noi fanno male anche la pressurizzazione, insomma, è una cosa, non c'è qualcosa di pubblico di cui uno possa andare orgoglioso. Che cosa pensi di questi abitanti della Val di Susa? Sinceramente poi non sai mai com'è la meccanica, perché è sempre un po' confusa, c'è sempre qualche infiltrato. Sinceramente ne ho viste troppe scene in cui in una città come Roma sfasciano dei negozi, rompono i vetri. Ma perché fai questo? Cosa c'entra la macchina? Quella è una rabbia che tu riversi verso un obiettivo sbagliato, no? Non si può accettare questo. Allora è giusto che uno faccia le sue proteste civilmente. Non ci dovrebbero neanche essere i poliziotti se per questo, no? Chiudiamo con qualche cosa che vada da questi luoghi di battaglia? Diciamo che ho previsto la vittoria di Pisapia nella prima mandata, non la seconda, che era troppo facile, no? E anche De Magistris. Siccome faccio il cantante, quindi in qualche modo vedo quando qualcuno in quel momento lì non sta raccogliendo simpatie, no? Per cui una qualche speranza ce l'ho verso un cambiamento lento ma radicale in questo paese, perché c'è un'altra Italia. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Di frontiera guardano passare i treni per Tosè. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Quante volte mi sono pentita di averlo sposato. Ma lì per lì sembrava un sogno. Single con un figlio di 7 anni, vivevo con i miei, una situazione pesantissima, e avevo già rifiutato 2 proposte di matrimonio perché entrambi consideravano il bambino un accessorio, pur di avere me. È arrivato quest'uomo, simpatico a tutti, che gli portava i giocattoli. Ho sposato l'amico di mio figlio, insomma, e sono uscita a testa alta da casa mia con lui, che ci avrebbe amati tutti e due. Ma subito si è rivelato un altro. Rinfacci continui, come se ci avesse raccolti dalla strada, ma soprattutto ha dato sfogo a un'antipatia per mio figlio che lui chiama educazione severa. Era la sofferenza della mia vita, non poter proteggere il bambino, e questo perché pensavo che lui avesse dei diritti su di noi, in fondo ne avevo soggezione. Ero arrivata al massimo della sopportazione quando ho fatto una scoperta. Ne sapevo la metà. Mio marito lo picchiava e gli faceva subire delle umiliazioni tremende davanti agli altri. Scherzava chiamandolo bastardo. Subito la soggezione è passata. Ho preso mio figlio e via, a casa dei miei. E lui mi mandi pure gli avvocati. Per fortuna non ha diritti legali sul bambino. Aveva promesso di riconoscerlo, ma lo usava come arma di ricatto. Me lo faceva sospirare. Meno male che non è successo. I miei genitori, rompiscatole quanto vuoi, hanno capito bene che lui pensava di averci comprati per dominarci e sono dalla mia parte. Le amiche mi spingono a fare la pace con lui, dicono che sono matta a mollare uno con un patrimonio come il suo e che col tempo mio figlio mi rimprovererà di non averlo fatto crescere in un ambiente sociale elevato che lo priva di grandi possibilità. Le tue amiche sono pazze. Cosa dicono? Lo priveresti di grandi possibilità? Ma quali? Le ricche vacanze? Le grandi macchine? Che cosa? E in cambio farsi straziare, umiliare e perfino farsi corcare di botte. Ragazzi, oggi veramente questa misura del denaro sta ottenebrando tutti. Tra l'altro, tuo figlio è straordinario. Tu pensa a un ragazzino di 10 anni che sopporta tutto per non farti soffrire. E è successo questo, con quel periodo così buio, vi aveva messo sotto. Tutti e due riconoscevate l'autorità di quest'uomo, eravate prigionieri. Sei stata brava. Un secondo e via. Sei scappata da casa dell'orco, col bambino per mano. Io sento proprio alle vostre spalle, si sgretola il castello dell'aguzzino, che non conta più niente, perché gli aguzzini senza le vittime non esistono. Sono polvere. Però la tragedia vera sarebbe stata se lui avesse riconosciuto tuo figlio. Allora sì che vi avrebbe perseguitato per sempre, con l'aiuto della legge. Invece è stato fregato dal suo stesso calcolo. Un altro punto. Dato che te ne sei andata di casa, la separazione sarà per tua colpa e non avrai una lira di alimenti. Meglio, molto meglio, tu nulla di suo devi prendere, così non ci saranno strascichi. E poi perché porta disgrazia, le cose di quest'uomo portano disgrazia. Si dice che gli euro non hanno colore, ce l'hanno, e qui hanno un colore tragico. Tu hai con te il tuo bambino, che è una creatura speciale e di una profondità rara, e non per la sua età, ma per tutte. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Cara Barbara, ho 44 anni, sento che sto invecchiando. È cominciata la lotta con lo specchio. Non mi sono mai piaciuta neanche da ragazzina, figurati adesso. A parte le rughe, che non ci sono ancora ma si annunciano, ho paura che mi si allunghi il naso e da alcuni segni intuisco che il collo crollerà presto. Lo specchio mi avverte di tutto quello che mi accadrà. Tu che sei molto più vecchia di me, dici sempre che te ne freghi. Non ci credo. Non ci posso credere. Possibile mai un cedimento, un rimpianto? Non si può essere indifferenti a questo terribile cambiamento. Ma se per caso fosse vero che te ne freghi, mi dici come si fa, Maurizia. No, senti, ma mica è vero che io me ne frego. È che non ci posso fare niente. Siamo deperibili. Non abbiamo scelto le regole del gioco. Però ci possiamo inventare come giocarlo. L'anno scorso ho scritto un libro su questo e non ne posso più di parlarne. Comunque ti dico il titolo, si chiamava Riprendetevi la faccia e ho poco da aggiungere rispetto a questo. Se proprio vuoi un consiglio, ti devo dire che davanti allo specchio, secondo me, non è un gran posto dove stare, dove fissare la propria residenza. E poi guarda, non è un problema tuo, è un problema universale. Piacersi è la cosa più difficile del mondo, a qualsiasi età. E sono pochi quelli che hanno l'aspetto che si sarebbero disegnati loro col pennello divino se avessero potuto. Anche qui bisogna giocare con le carte che ci sono toccate. Io ti direi di non accanirti su quel calcolatore del tempo che è la superficie specchiante. E magari diventi più bella. Meno ti specchi, più diventi bella. Poi se non ti piaci, trasformati. Io ho delle grandi sorprese quando mi specchio, perché mi credo un'altra. Poi capito là davanti e dico, ma allora, non è vero. Io cambio forma come le nuvole. Poi vedo quella vera. Per un po' ci rimango male, però mi passa subito. Ho pochi rimpianti perché non ho memoria. A casa mia non teniamo le foto della gioventù appese in casa, stanno in qualche cassetto chissà dove. Però ci sono dei cedimenti all'improvviso. Un vecchio amico mi ha spedito al faro una foto di quando ero bella. Apro il plico e mi è preso un colpo. Mi è uscito fuori una persona che non mi ricordavo di essere stata e mi ha fatto un'impressione bruttissima. Ho detto, Madonna, come mi sono ridotta. Per un giorno o due ci ho sofferto come un cane. E mi sono offesa a morte, tutta in una volta, d'essere diventata come Nonna Papera. Però alla fine Ti dirò che ero anche un po' contenta. Sai come da ragazzina quando ti metti il rossetto la prima volta che ti senti come le altre? Finalmente una crisi era venuta anche a me. Mi ha rassicurato. È ovvio che col tempo mi ci vuole un senso dell'umorismo sempre maggiore per portare in giro la mia faccia. Però non mi affido allo specchio, che è cattivissimo, perché ci guarda con i nostri occhi, che sono gli occhi della paura. La tua, comunque, non è paura di invecchiare. È narcisismo. Il narcisismo più smisurato, quello di chi non si piace e se ne fa una fede, un vessillo, una crociata. Ma perché non ti guardi intorno e non ti accorgi che il mondo è abitato anche da qualcun altro, oltre a voi due, cioè tu e la tua immagine? Di solito c'è una cura per queste cose. Non so, provare a voler bene a qualcuno e magari a fartene volere, perché è l'unico modo per diventare belli. Quando si vuol bene e si è voluti bene, viene la famosa faccia d'amore. E qualsiasi sia la tua fisionomia, anche se hai un naso da cirano, tutto risplende, tutto. Se smetti di pensare solo e sempre a te, odiandoti. Una mia giovane amica alla quale ho citato il proverbio, il detto romanesco, beato chi te se sposa, e lei di slancio ha risposto: ah, un grido che prende tutta la pagina. No, no, nessuno sarà più beato di me, e chi si sposa più? Per l'amor di Dio, ho già dato, e una volta è sufficiente nella vita. E questa è una lezione per tutte quelle che si sposano già non amando più la persona che sposeranno. Come se il matrimonio fosse ancora una soluzione, come ai tempi di mia madre. Oggi non è una soluzione. E questa amica, che si chiama Sonia Cassaghi, ce lo dimostra. Io ho avuto un castigo, forse meritato, credo, che è un segno di scarsa moralità, di non ricordarmi nulla. E allora, appena leggo un libro, immediatamente faccio degli appunti, prima che tutto vada via. E ne ho gli armadi pieni. Questo sono gli appunti che ho preso su Diritto e Castigo, il famosissimo romanzo di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, la storia dello studente Raskolnikov che si aggira per Pietroburgo e che è il vero luogo della letteratura russa, già trasfigurato da Pushkin, da Gogol. Per riassumerlo indegnamente in poche parole, è la storia di questo studente che si rode di frustrazione, malanimo ed è convinto di essere un superuomo. E per dimostrarlo fa l'atto titanico, lo strappo al patto sociale e ammazza una vecchia usuraia e la sua innocente sorella più giovane, con l'alibi del furto. Ma come scriverà Nietzsche, pensando anche a lui nello Zarathustra, ciò che vuole è la felicità del coltello. Questa è la grande aspirazione di Raskolnikov. In verità ammazza queste due povere donne per giocare col mondo, per ingannarlo, per farla franca, perché lui è il più intelligente di tutti. Ma non è vero. Infatti non ce la fa, crolla subito e si fa scoprire, anche perché l'assassino ha fretta di confessare, ha fretta di vantarsi. E difatti si guadagnerà per sempre l'amore di Sonia confessandole di aver ammazzato le due donne. Verrà condannato a 8 anni di lavori forzati, lo accompagnerà Sonia e conoscerà un'ascesa spirituale e la redenzione, questo in 3 parole appunto il libro. Questi sono appunto i miei commenti a caldo subito dopo una delle prime letture. Cupo, sì, molto, Delitto e Castigo, ma non mi lascio più ingannare da Dostoevsky. Più si rilegge, più si sente un riso sotteso, come in un vaudeville dell'orrore. L'uomo è una tale catastrofe, non resta che ridere, anche se lui poi si abbandona alla sua vena comica compiutamente soltanto nel Giocatore. Delitto e Castigo è modernissimo, perché lì comincia una tendenza che ai tempi nostri è al suo culmine, ovvero l'assassino superstar. Raskolnikov oggi andrebbe in TV a vantarsi di come ha ammazzato la vecchia e sua sorella. Io ricordo che Pino Pelosi, l'assassino di Pasolini, appena scarcerato, fu invitato in televisione a Domenica Inn e venne accolto con un applauso. Delitto e Castigo precorre il modo attuale di considerare il delitto. L'unico interessante è l'assassino. La vittima è un pretesto per la fama, è un'ombra. Tutto il romanzo è scritto perché questo antipatico si decida alla fine ad amare Sonia. È come se il lettore si sentisse alla fine da lui un po' considerato, come se ci facesse un favore. E le vittime? Peggio per loro. Della vecchia ce ne frega sempre meno, anzi, dopo un po' viene quasi burlata. E l'innocente Elisabetta, sua sorella, che muore anche lei con un'accettata in piena faccia, viene sempre dimenticata. Presto, anche da chi legge. La pena che tocca Raskolnikov è oltraggiosamente mite per un freddo assassino come quello. Come oggi, 8 anni per aver trucidato a colpi d'accetta 2 creature inermi. Vedi, ai suoi tempi Pietro Maso, un altro micragnoso superuomo che spacciò a ferrate da stiro padre e madre per soldi con bieca premeditazione, perché faceva i piani scritti da mesi e mesi, che furono ritrovati, e si ebbe 20 anni, 10 anni per genitore, un affare. Dostoevsky inaugura l'omicidio a buon mercato. Quasi ci fosse un'ambigua complicità fra chi ammazza e chi lo giudica. Quando l'omicida non viene adeguatamente punito, vuol dire che ha ucciso per tutti. Io ho orrore, l'ho detto un'altra volta, ho orrore della pena di morte come dell'indulgenza verso il delitto. Io credo che il delitto vada onorato. Tu ti metti fuori dal patto sociale e questo merita una pena adeguata. Barbaro è giustiziare, altrettanto barbaro è non fare giustizia. C'è dietro la stessa sorda immoralità. Raskolnikov medita il delitto, lo premedita, lo compie, ma non è all'altezza. Si rende conto che non è un Napoleone, che è un disgraziato. Intanto però tutti gli stanno intorno. Anche se vile, miserabile, un po' sciocco, e sulle spalle delle donne sempre, nel delitto come nel rimorso. A Sonia non chiede soldi, chiede la vita. Le chiede di fare a metà nell'espiazione di un delitto di cui ha goduto lui solo. E per assegnarle alla fine questo premio si farà pure corteggiare parecchio. Non rubate, è un rischio. La proprietà vale ancora molto. Uccidete, oggi come ieri, vi capiranno. Quanto alla vanità, al protagonismo, alla voglia di vantarsi dell'assassino, troviamo questo non soltanto in Dostoevsky, ma anche in una canzone napoletana intitolata O cinematografo, scritta da E. A. Mario, ovvero da Giovanni Ermete Gaeta, questo grandissimo paroliere e compositore di canzoni napoletane e anche italiane, che è la storia di questo signore che va al cinema e si identifica totalmente in quello che vede, perché lui è cornuto e vede sullo schermo uno che ha la sua stessa storia. E quindi porta la moglie al cinema, lei lo prega di portarla, e si infervora talmente quando il protagonista del film uccide la donna, lui fa lo stesso. Poi sentiamo O cinematografo, interpretato da Mario Merola, ma adesso leggo le parole così si capiscono bene. Siamo ai tempi del muto e quindi quando parla del dialogo parla di scrittura. Un goppo mi scuso con tutti i napoletani se offendo la loro lingua bellissima con la mia pronuncia. Un goppo cartiello steva amore tragico in una figura femmina scannata. S'erano fatte 20 repliche, ma sala steva già tutta affullata e ghietti pure a sto cinematografo, come si dice, per fatalità. Da prima parte subito dicette: ma st'autore, com'ha potuto scrivere quello che ha porto chiuso d'into core? Guarda stu primo attore, ca ride si vuo chiagnere. Dicette uno do pubblico che a me sapeva, a rassomiglia a te. E poi la moglie gli dice: perché ce turne a stu cinematografo? O vuo sapè, perché mi piace assai. E che lavoro fanno? Amore tragico. Te piace tanto e non me porte mai. Non c'è venì, che meglio assai. No, portami. E che facette per venì con me? E qui siamo nel film e siamo nelle didascalie che loro leggono, appunto. E il protagonista, il cornuto, dice, l'uomo tradito: donna, vi posso chiedere conto del nostro onore? Essa, cioè la moglie, li gette pallida, l'esse pallida, e si sente male. Ascimoncenne fuori, dice, usciamo, andiamocene. Ascimoncenne fuori, ascimoncenne subito. Prima se fa che l'ultimo quadro scritto all'autore, due colpi se sentettero, due colpi vere, nell'oscurità. Luce, cao primo attore, stacca, sta mezzo pubblico. Pubblico, applauditeme. L'ultimo quadro l'ha già fatto a casa. Pubblico, applauditeme, l'ultimo quadro l'ho fatto. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.